Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 10 maggio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutte e rieccovi su Liberi Dentro ed Uradio, ora in onda su Radio Città Cugico, Teletricolore e Lepida TV. Do il buongiorno sempre alla mia collega Antonella Cortese, buongiorno a te Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. E anche auguri, perché siccome è il 10 maggio, proprio ieri è stata la festa della mamma, tu sei mamma, come tante, spero, ascoltatrici che ci ascoltano, tra il carcere e la città, e volevo raccontarvi qualcosa su questa festa, che è una festa che cade sempre la seconda settimana di maggio, infatti si è precelebrata quest'anno ieri, il 9, e ha origini un po' antiche, diciamo che si lega un po' al mondo, vero? Sì, infatti ti volevo chiedere, Caterina, che origine ha questa festa? Ma, guarda, appunto dicevo, origini molto antiche perché si lega un po' al mondo greco-romano in cui comunque la figura della donna, in particolare legata alla fertilità, veniva comunque celebrata e quindi si festeggiavano già le mamme nelle numerose feste legate alle divinità femminili. Poi in epoca medievale questa accezione si è persa perché soprattutto nel mondo occidentale, arrivando comunque la religione cristiana, quindi perdendo il carattere del politeismo, le uniche feste a tema mamma erano quelle legate alla Madonna e quindi alla Theotokos, la madre di Dio per l'appunto. Quindi in un certo senso la festa della mamma in quel periodo, tra il periodo del Medioevo e del Rinascimento, era in un certo senso la festa di tutte le mamme ma legata alla Madonna. Tornando ai giorni nostri, qual è il senso di questa festa? Come si è modificato? Parlando dei giorni nostri, ci dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, comunque tra 8 e 900, si è diciamo stabilito il concetto odierno di questa festa, e in due momenti diversi, e sono due momenti diversi legati, in particolare mi piace ricordare questa cosa, a una storia generazionale tra madre e figlia, perché il primo momento risale agli anni 60 e 70 dell'Ottocento, quando in merito a una pacifista di nome Anne Reeves Jervis e a sua figlia Anna, che al termine della guerra civile americana aveva promosso una serie di iniziative, feste della mamma per l'appunto, con l'obiettivo di favorire l'amicizia, pensate, tra le madri di nordisti e di sudisti americani. E poi, sempre nello stesso periodo, 1870 più o meno, la poetessa americana Julia Ward Howe scrisse Mother's Day Proclamation, nella quale esortava le donne ad assumere un ruolo attivo nel processo di pacificazione tra gli stati americani. Poi un secondo momento, dicevo, quindi un primo momento è legato a questa pacifista Anne, poi il secondo momento invece risale ai primi anni del Novecento, quando la figlia di Jervis raccolse il testimone di sua madre e cominciò a organizzare numerosi eventi dedicati alle madri. Finché numerosi eventi che raggiunsero l'attenzione del presidente degli Stati Uniti, che allora era Woodrow Wilson, che ufficializzò poi la festa nel 1914. E fu proprio il presidente Wilson a stabilire che questa festa venisse celebrata sempre la seconda domenica di maggio, visto che in quel periodo era morta la mamma di Anne, per l'appunto. Caterina, senti, ma torniamo a casa nostra, come si festeggia in Italia? In Italia la storia di questa festa è legata al periodo, diciamo, fascista, perché risale al 1933, durante il fascismo, quando il 24 dicembre venne celebrata, istituita la giornata della madre e del fanciullo. Quindi le mamme venivano in qualche modo celebrate, festeggiate per motivi propagandistici del sistema dittatoriale di Mussolini. Soltanto nel secondo dopoguerra, anche in Italia, la festa della mamma comincia a perdere questo carattere propagandistico e iniziano a diffondersi, in particolare prima due feste della mamma, una più religiosa e una più, diciamo, laica, civile, e finché nel 1959 non prese piede la vera e propria festa della mamma che celebriamo noi adesso, per prima nell'8 maggio, nella giornata dell'8 maggio, e poi adesso, da pochi anni, sempre la seconda domenica del mese di maggio. Bene, io vorrei fare un augurio a tutte le mamme, soprattutto alle mamme che sono in detenzione, perché è una festa importante per tutte noi. Sì, esatto, anche perché i numeri appunto delle madri con figli a seguito, stando ai dati DAP del 31 marzo 2021, sono 26 detenute con 28 figli a seguito, quindi ricordiamole tutte e dedichiamo loro il cantante di questa settimana, che è Jimi Hendrix, il famosissimo chitarrista statunitense. Anche Jimi Hendrix purtroppo è stato in carcere a motivo di possesso di stupefacenti, eroina e cocaina, e anche per questo è morto molto presto, però è stato veramente un'icona del rock americano. E la canzone che dedico a tutte voi che ci state ascoltando è Foxy Lady del 1967. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro Eduradio. Abbiamo parlato della festa della mamma all'inizio, ma rimaniamo in tema donne con la prima donna arbitro, vero Antonella? Sì, è la prima donna arbitro di basket, addirittura alle Olimpiadi di Tokyo, per le partite di basket 3 contro 3 o 3 per 3, come vogliamo definirlo. Ma la cosa interessante è che Sara potrà arbitrare indossando il suo hijab, cioè il copricapo che indossano molte donne musulmane, in quanto la International Basketball Federation, cioè la FIBA, ha per fortuna cambiato il regolamento nel 2017, permettendo sia alle giocatrici che alle donne arbitro di indossare l'hijab in certe situazioni. E Sara ha 32 anni, è un arbitro egiziano e sostiene che fin dall'inizio della sua esperienza lavorativa come arbitro non ha mai sentito nessun commento negativo o comunque trovato ostacoli. Considerate che lei vive in un mondo prettamente maschile ed è velata, è una donna velata. Dice però che per lei il velo è qualcosa di normale e l'ha sentito così sempre e anche le altre persone lo considerano tale. Non ha mai avuto alcun problema. E arbitrerà, come vi dicevo, le partite di basket 3 contro 3. Ma Antonella, sfatiamo subito un mito. Io sapevo che le partite di pallacanestro erano 5 contro 5, se non sbaglio. No, no, hai ragione. Quelle classiche sono 5 contro 5. Invece questo modulo nuovo, diciamo, è 3 contro 3, che è un po' una rivoluzione. Sono partite molto, molto veloci, prima di tutto, che si giocano in una metà campo e con un pallone specifico, che è un pallone in effetti che ha la stessa circonferenza di quello del basket femminile, ma è pesante come quello maschile. E il gioco è diverso, ci sono tre giocatori in campo, uno in panchina che però può entrare molto spesso, molto velocemente, e le partite durano 10 minuti. Si arriva a 21 punti, i primi che arrivano a 21 punti hanno vinto, insomma, è un modo molto diverso di giocare a basket. Ma previsioni future, sappiamo che durante le Olimpiadi vengono appunto fatte le partite di pallacanestro e quest'anno dovrebbero essere a Tokyo, si terranno? Stai toccando una dolente note, perché siamo tutti molto sospesi in questo periodo e le Olimpiadi, stanno purtroppo avendo la stessa sorte. Non sappiamo bene come andranno avanti. Certo è che la fiaccola olimpica è partita, quello sicuramente. Il percorso è stato iniziato, ma ci sono già delle squadre che hanno fatto retromarce. Mi riferisco per esempio all'Australia, alla squadra di nuoto che ha deciso di non parteciparvi. Però vi voglio parlare ancora di Sara perché secondo me è molto interessante la sua esperienza. Prima di tutto non è alle prime armi, ecco, questo è importante. È una donna che si è preparata molto bene e nel 2018 infatti ha già partecipato in Bielorussia alla World Youth Cup e all'African Women's Championship nel 2017. E sostiene di non aver paura di niente. A me è molto simpatica questa ragazza che è in un mondo di uomini altissimi, tra l'altro, perché sapete, i giocatori di basket sono veramente i più alti che ci siano. E questa ragazza si è innamorata del basket all'età di 5 anni, imparando dalla sorella e cominciando poi ad arbitrare all'età di 16 anni. E lei fa un'osservazione che secondo me serve molto a tutti i giovani. Ho imparato con lo sport e con il basket a gestirmi il tempo tra studio e sport. Questa è una caratteristica che molti ragazzi sperimentano e che serve poi anche in futuro nel mondo del lavoro. E, tra l'altro, rimaniamo in tema di festa della mamma, dice che ringrazia tanto sua mamma perché l'ha aiutata tantissimo a studiare e infatti è diventata ingegnere civile. Antonella, quindi lanciando la canzone a metà della nostra mattinata? E io tornerei a un mito della musica araba che è Fergus con Kifak Inta. كيفك؟ E ben ritrovati a tutti su Liberi Dentro, i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Oggi abbiamo con noi, su questa rubrica in collaborazione con ASP Bologna, un'altra ospite molto prestigiosa, veramente per noi, grazie per essere qui. Per noi che facciamo informazione tra la città e il carcere, per l'appunto, che a noi piace considerare un po' il quartiere, un quartiere della nostra città. La dottoressa Claudia Clementi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Finalmente nel 2013 sei arrivata nella nostra città di Bologna, al carcere, la casa circondariale Rocco D'Amato. Invece, dottoressa, le volevo chiedere, riguardante il tema di questa pandemia legata al Covid-19, che purtroppo ormai sta attanagliando l'Italia intera e praticamente tutto il mondo da un anno, quindi in questo contesto straordinario di questa annata, quando è cambiato il suo lavoro di direttrice e quanto secondo lei è cambiato proprio il carcere in quest'ottica? Ma allora, dunque, quanto sia cambiato il mio lavoro, in realtà forse non è cambiato. Certo è che era una situazione, insomma, anche per noi che magari abbiamo qualche anno così alle spalle di lavoro, era veramente per noi sconosciuta, no? Perché tra l'altro, ecco, in alcuni istituti, tra cui il nostro, la emergenza epidemiologica si è sovrapposta al discorso delle rivolte, quindi a una situazione, no, dell'istituto caratterizzata da una devastazione di tantissimi ambienti. E quindi ci siamo trovati ad affrontare due realtà che nessuno di noi aveva conosciuto prima, perché sicuramente le possibili rivolte ci sono state, ma non con quelle dimensioni, non con quelle caratteristiche, così come anche altre situazioni di emergenza sanitaria c'erano state, ma non con queste caratteristiche che purtroppo conosciamo oramai tutti quanti noi. Il carcere è cambiato molto, tutto quello che si faceva prima non si fa quasi più, tranne alcune cose. È ovvio che le cautele che è necessario utilizzare fuori di qua, qui devono essere ancora più accentuate, perché comunque gli spazi sono quelli che sono. E i numeri sono quelli che sono, cioè io penso, no, adesso che ne so, dei nostri dipendenti che si sono contagiati e che hanno avuto, hanno magari delle abitazioni molto piccole che non consentono l'isolamento dagli altri familiari e sono andati nei famosi hotel Covid, ad esempio. Ecco, qui non c'è l'alternativa dell'hotel Covid, no? Per cui tu dici io devo isolare dei detenuti positivi e quindi li mando da un'altra parte. Ecco, purtroppo questo non è, noi abbiamo cercato ovviamente di separare i percorsi, di individuare delle sezioni dedicate ai detenuti eventualmente positivi e così via, però è ovvio che è tutto molto più complicato viste le dimensioni, viste gli spazi e così via. Quindi è ovvio che si sono dovute adottare delle misure limitative dell'ingresso di persone da fuori proprio per preservare questa comunità, perché appunto la gestione poi di una focolaio all'interno del carcere, lo abbiamo sperimentato, è una gestione molto complicata. Io dico sempre che purtroppo stiamo vivendo un carcere che non era quello che conoscevamo, e questo è sicuramente molto penalizzante per i nostri ospiti, ma lo è anche per noi operatori, perché comunque insomma, cioè ecco, io penso semplicemente che ne so, noi poco prima che scoppiasse il tutto e avevamo da poco inaugurato una sala cinematografica all'interno dell'istituto, adesso la stiamo utilizzando per fare delle riunioni e garantire il distanziamento, cioè che sembra una cosa, no, veramente insomma un po' assurda, ecco, quindi sì, è cambiato tanto, in misura sicuramente maggiore di quanto c'è stato un cambiamento per tutti noi, ecco. I'm now found up every place to my heart to sing thy praise, streams of mercy, ever ceasing, call for songs of the loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon. Cambiato il carcere anche negli ultimi quasi 20 anni, dovuto anche alle immigrazioni varie verso l'Italia che ci sono state, quindi c'è un dato che anche qui ci vorrebbe forse una giornata per approfondirlo, però in Italia la recidiva si attesta al 70% ed è un dato purtroppo molto grave. E volevo chiederle, secondo lei, quali sono gli interventi fondamentali per contenere il rischio di recidiva? Sì, ci vorrebbe una giornata veramente per parlare di questa cosa. La recidiva si abbatte comunque creando tutte le condizioni spirituali, psicologiche, individuali e materiali perché quella persona nella vita possa fare delle scelte diverse. Poi ognuno è arbitro di se stesso, la responsabilità individuale insomma non è negata, però ci vogliono dei supporti, no? Cioè se chiudiamo i ristoranti per il Covid ci vogliono i ristori e insomma un po' il meccanismo è quello, no? Ecco, quindi le azioni da fare sono tante. Quello che spesso non si comprende è che la gestione della pena detentiva e di quello che ne viene che poi c'è successivamente non è una competenza esclusiva dell'amministrazione penitenziaria o degli operatori penitenziari, è una responsabilità che hanno tanti soggetti, tanti enti e in fin dei conti poi ognuno di noi, ogni cittadino diciamo, no? In qualche modo. Ecco, quindi le azioni devono essere delle azioni sinergiche e che siano anche un po' lungimiranti, no? Perché appunto sempre per fare adesso l'esempio di moda dei ristori sulle attività, però cioè, se uno fa solo il ristoro e poi non pensa a quello che si può fare dopo, no? E, insomma, no, è la solita metafora del dare il pesce e dell'imparare a pescare, insomma, più o meno è così. Keep it real, things like you and me. Getting freaky in the sheets. I'm not a slut on the streets. Like I was slick, hold myself high. Baby shark in my can I grow over there so fly. That's how I cut your wild. Don't you know I'm smoking weed every day. Damn, I'm with my Mary Jane. That's what we both say. Two peas in the same pot. Criminals are hot, hot, we'll never get caught. It's you and me, yeah. That's the way it's meant to be. It's meant to be. It's you and me, we stand together in unity. If they divide, you conquer. It shows that you're true to me. Can't believe you're choosing me. The other ones were just using me. When they see us together, all they do is talk scrutiny. They just mad cause you are now where they used to be. Something they can't have, instead they get the boot from me. The home team boot from me, winning is something new to me. There ain't no telling how much you're willing to do for me. You too good for me, I tell myself that it shouldn't be. Must be meant to be, otherwise then it wouldn't be. You made me rise up when I thought that I couldn't be. My eyes were shut, but they opened up so I could see. Ooh, baby, it's you and me, yeah. That's the way it's... Il nostro intervento termina qui. Ci rivediamo presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere a Liberi Dentro e Duradio sui social, Instagram e Facebook, se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti! Ben ritrovati, ci salutiamo ora con le parole di Claudia Clementi, la direttrice del carcere della Dozza di Bologna, per questa nuova pillola a cura di ASP Città di Bologna in collaborazione con Tecnotrade. Vi ricordo il laboratorio a seguire, se ci state seguendo sull'Epida TV oppure alle 17 di pomeriggio su Teletricolore, con AVOC e il Centro Internazionale del Libro Parlato, Voci da Dentro. Ringrazio di nuovo tutti per l'ascolto, scriveteci, redazione Liberi Dentro, @gmail.com, oppure se volete scriverci via postale, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40, 136 Bologna. Ringrazio Antonella Cortese qui in studio con me e Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate. Buona festa della mamma ancora, con una giornata di ritardo rispetto a ieri, a tutte le mamme e le donne che ci stanno ascoltando, e ci rivediamo domani sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.